Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Dai cavalli ai tir, l'avventura di Tommaso Piccinini e della sua famiglia, di Andrea Ferro. Questa è una bella storia italiana, una storia di tenacia e di speranza, di merci da trasportare lungo strade che hanno intersecato il tempo e le epoche, una storia di uomini e di donne che hanno saputo guardare sempre lontano, oltre le nebbie e al di là delle avversità. È la trama di vita e di impresa di Piccinini Trasporti, cinque generazioni cementate da una tradizione sbocciata nella terra di origine, Fidenza, Parma. La pianura, il Po, gli orizzonti tranciati dalle guerre, la riscossa, la voglia di non mollare mai, l'intuizione, la sfida. Tommaso Piccinini racconta e scandisce i capitoli del lungo viaggio intrapreso tanti anni fa. Durante la guerra 11 bombe cadute sulla nostra casa hanno distrutto tutta la storia cartacea, se può chiamarsi storia cartacea, della nostra piccola realtà familiare. Casualmente abbiamo trovato un documento nel comune di Fidenza, datato 1914, dove un piccolo impresario a cui i miei familiari avevano fornito ghiaia e sabbia per la costruzione del cimitero fallisce e dà una cappellina in pagamento ai miei genitori, datata 1914. Mio nonno muore del 1917, mia nonna, che avrebbe fatto pari pari su una bilancia con la Thatcher, prende in mano la famiglia, la porta avanti con i figli, continuano come carrettieri durante la costruzione della strada che va da Fidenza a Salso Maggiore. Ancora la ditta fallisce e il capo cantiere, forse gli fanno pena mio padre e i suoi fratelli, e gli dà due relitti della 1518, due BLR della 1518. Con quelli lì allungano il tiro, arrivano al grande fiume, al fiume Po, a prendere la sabbia che veniva ricavata con fatica dal fiume per gli impresari di Fidenza. La tenacia di Piccinini è il vero motore che alimenta gli sforzi e il coraggio e valica trappole e paure. La razza non mente. Gente di pianura, lavoro, fatica, intraprendenza, umiltà. In principio, carri e cavalli a trasportare di tutto. Poi i primi camion, ognuno con il suo nome. Prima di avere un camion nel vero nome, dobbiamo aspettare fino al 1933. Io nasco e, come era usanza nelle famiglie, che il destino di chi nasceva era già segnato quando nasceva, siccome ero un maschio avrei segnato la continuità, fa un bel debito e compra un nuovo Fiat, un Fiat 605. Nel bresciano a prendere la calce, nel bergamasco a prendere il ferro. Passando dai cavalli agli automezzi davano il nome, uno si chiamava Fra Diavolo, c'era il Nostromo, era un'abitudine dei carrettieri. Molti carrettieri, devo dire, pensando di dover pagare il gasolio, rinunciarono a progredire perché erano abituati a rubare l'erba dietro i fossi. E il fatto di prendere il carburante e pagarlo fecero i carrettieri fino all'esaurimento e poi cambiarono mestiere. Pochi coraggiosi ebbero questo potere di adeguarsi alle nuove necessità. I miei furono fra questi, loro dicevano che erano dei coraggiosi, mia nonna diceva che erano dei disperati, diceva. Arriva il tempo della campagna d'Africa e i Piccinini vengono inviati in missione, trasportatori al seguito dell'esercito. E di lì a poco scoppierà la guerra che ribalterà ogni progetto, distruggerà tutto, ma non le fondamenta di un'idea e di un carattere. Il governo decide di andare in Africa e l'esercito prende dei trasportatori civili per trasportare i materiali dell'esercito, in quanto povero come la nazione non ha abbastanza macchine. I miei decidono di tentare l'attività in Africa, seguono l'esercito, finiscono le operazioni belliche, il governo mette tutti in libertà, chi poteva rientra in Italia, chi invece non aveva niente davanti e di dietro rimane in Africa. Un collega di mio papà alza le mani e ai due automezzi nostri ne aggiungono altri due. Poi purtroppo arriva la guerra, gli inglesi rioccupano la colonia e mettono i trasportatori davanti a un out-out. O collaborare con loro o farsi confiscare le macchine. Io non so perché. I miei scelgono la via della confisca e vanno in campo di concentramento. Finita la guerra, i piccinini e la loro impresa di trasporti ripartono praticamente da zero, o quasi. Da Fidenza la strada da percorrere è un'altra salita, tra tornanti e precipizi in agguato. Ma la prospettiva non scoraggia. Anzi, ci sono un paese e un avvenire da ricostruire dentro un mondo che inizia a cambiare in fretta, offrendo nuovi incontri e inimmaginabili opportunità. Si apre un'altra epoca. Mio padre aveva un piccolo camioncino, rimise insieme un Fiat 634 che era stato smontato e nascosto nel piccolo podere dei miei nonni. E così cominciò l'opera di ricostruzione della ditta. Subito lavoravamo per tutti, poi andammo ai pastifici Barilla, dopodiché un giorno io ebbi un incontro per me miracoloso che cambiò la mia vita. Fui accompagnato da un cliente alla Montecatini, una realtà tanto grande per me che non sarei neanche potuto entrare dalla porta di servizio. Feci 2 anni di scuola con loro, 2 anni che non auguro a nessuno, dove ho passato più notti dentro la cisterna a segare la plastica che si solidificava. Devo ringraziare i 3 autisti che mi affiancarono e furono per me dei fratelli. E così portammo alla costruzione dei primi 2 autosilos per la plastica. Siamo nel 1965, mettemmo a regime i primi 2 silos e lì abbiamo cominciato il trasporto. Quando tutto andò a regime, un funzionario mi chiese che cosa avessi visto io di positivo in quel lavoro quando tutte le ditte di buon nome avevano rifiutato. E io risposi umilmente che non avevo niente e niente avrei avuto se le cose andavano male. Dalla ghiaia e dalla sabbia del Po per costruire le strade, alla plastica per fare di tutto. Dai carretti ai primi mezzi dedicati a un trasporto unico nel suo genere. Dopo tanta strada, tra buche e ostacoli, la Piccinini Trasporti assume una sua precisa connotazione che la caratterizzerà negli anni a venire. La ditta ebbe modo di specializzarsi, ebbe modo di crescere. Oggi la nostra posizione è cambiata notevolmente. Il nostro parco macchine fra semirimorchi e trattori supera i 100 pezzi. Per festeggiare i 100 anni di attività, Tommaso Piccinini ha regalato all'azienda il coronamento di un sogno, una nuova, moderna struttura all'interno dell'Interporto di Parma, battezzata nel nome del padre. Nel 2014, una cosa che io avevo nel cuore spassionatamente, abbiamo fatto una nuova costruzione perché volevo dedicare a mio padre una sala, Oggi abbiamo una sede nuova, nell'interno dell'Interporto, abbiamo 2 travasatori e facciamo il rilancio all'estero delle plastiche dell'ENI. Arrivano da noi 4 treni alla settimana che vengono in parte consegnati sul nazionale, in parte rilanciati all'estero, e la nostra è una piccola realtà familiare orgogliosa del suo nome che cerchiamo di portare avanti. Siamo la 5ª generazione con i miei figli. Oggi una manciata di cabine blu gira per le strade d'Italia e porta in giro il nostro nome. Il mondo mondo dell'autotrasporto vive momenti non semplici. La concorrenza praticata, spesso in maniera sleale, dai vettori dei paesi dell'est europeo ha sconvolto il mercato. Molte imprese hanno chiuso o delocalizzato. La lunga crisi ha spezzato gli equilibri. Il paese arranca tra sensazioni contraddittorie. La ripresa pare ancora un soffio leggero. In un'atmosfera di incertezza, Tommaso Piccinini rivolge ai giovani un messaggio che rimbomba come un segnale di incoraggiamento nel segno di un'avventura imprenditoriale e di una testimonianza di vita e di impresa. Credere in se stessi. Prima di tutto dobbiamo essere noi convinti di quello che facciamo. Dobbiamo sempre ricordare che non sono mai le leggi e mai i decreti che salvano le situazioni. Sono sempre gli uomini con il loro carattere, con la loro serietà, con la loro volontà che dominano gli eventi. Io devo ringraziare la famiglia che ho alle spalle. Ho affrontato delle prove in nome di questa famiglia a cui non ero preparato, a cui sarei uscito certamente perdente se non avessi avuto grande speranza, grande fiducia, perché dobbiamo smetterla di considerare i nostri colleghi dei nemici. Sono dei colleghi a cui dobbiamo dare la possibilità, operando con fiducia, operando con serietà, di convincerli ad appoggiarci a noi, ad appoggiarci. Uno da solo che pensa di sfondare il mondo è un pazzo. Io sono convinto che i migliori arriveranno in fondo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.